in primo piano. Eccoci qui, giovedì 24 febbraio, la Libia sicuramente per il terzo giorno consecutivo è nelle prime pagine dei giornali, il Sole 24 Ore, il petrolio record per la crisi libica e poi fosse comune a Tripoli. Per il Corriere la rivolta avanza, Gheddafi resta solo Tripoli. La Libia in un bagno di sangue, apre così Repubblica. Inferno Libia, migliaia di morti, questo è il titolo della Stampa. Vediamo qualche altro titolo che non sia la Libia. Libero continua la campagna su Affittopoli, rubano le case anche ai ciechi. La nuova Affittopoli, che riguarda per Libero l'Istituto dei Non Vedenti di Roma. Mentre il giornale, dopo rubi, Hitler. Questo è il paragone che Umberto Eco ha fatto riguardo Berlusconi. Lo vedremo, ha suscitato polemiche. Poi il Fatto Quotidiano ha un titolo di apertura che si annuncia un vero e proprio scoop e che farà discutere. Ho sparato così. 33 anni dopo, ecco il video che incastra Vittorio Emanuele. È un video che il Fatto Quotidiano annuncia verrà pubblicato oggi sul sito internet del nostro giornale, nel quale il principe Vittorio Emanuele di Savoia confesserebbe a distanza di 33 anni di essere stato lui ad avere sparato in Corsica a Dirk Hemmer, quel giovane che sull'isola di Cavallo rimase ucciso da due colpi di fucile o di pistola. Insomma, per quel processo, per quella vicenda, lui fu assolto, ma ora il Fatto mette in prima pagina: c'è un video che incastra con una confessione shock di Vittorio Emanuele, l'ho ucciso io, avrebbe detto in questo video. Allora, intanto io voglio partire dalle consuete segnalazioni. La prima la troviamo sulla Stampa, pagina 20. Fumo passivo in ufficio, condannate le Poste. È una vicenda che riguarda un pensionato di Messina di 82 anni che per anni ha dovuto lavorare in un ufficio postale con le finestre sigillate, si è ammalato a 82 anni, ha chiesto un risarcimento e il giudice del lavoro gli ha dato ragione, condannando le Poste a una spesa di 174.176 euro. Una vicenda per la quale il legale di questo pensionato dice: sicuramente le Poste si appelleranno, ricorreranno, perché il caso del signor Francesco non è isolato, tanti altri ex dipendenti potrebbero ora fare causa, ma certo la definisce questo legale come un pronunciamento storico, una sentenza che non ha precedenti. Un impiegato si era ammalato per colpa delle sigarette dei colleghi, fumo passivo in ufficio, condannate le Poste. Questa è una notizia che ha solo, come io ho visto, solo sulla Stampa, pagina 20. Poi vogliamo iniziare un po' anche con un sorriso. Allora, ieri i giornali hanno dato la notizia del concerto di Apicella, no? Colui che canta spesso anche per e con Berlusconi. Sospeso questo concerto perché a Milano, era il Teatro degli Arcimboldi, perché Apicella aveva venduto un solo biglietto in prevendita. E poi c'erano delle contestazioni anche annunciate. Oggi Apicella fa un'intervista al Riformista. Anche Apicella giura sui figli: avrei venduto un solo biglietto, ma che ne avevo venduti almeno 750. Insomma, non tantissimi, però 750. Solo in Italia si butta fango così addosso alle persone. Con me si sono comportati come si fa di solito con il presidente. Allora perché è saltata questa serata? Perché c'era il rischio di contestazioni. Io mentre canto non tollero interruzioni. Così Apicella, che poi dice: giuro sui miei figli che non è vero. Non è vero che ho venduto un solo biglietto. Non avrei problemi a dirlo. Non è vero. Anche lui giura sui figli, dice il Riformista. E questo mi dà spunto di leggervi La Maca oggi di Michele Serra, che trovate a pagina 32 di Repubblica. Vorrei invitare a cena il 10 marzo, per suo risarcimento, per mia curiosità umana, l'unico spettatore che aveva acquistato l'unico biglietto venduto per il concerto di Mariano Apicella sul prestigioso palco degli Arcimboldi in Milano. Lo show, finanziato da anonimi filantropi che avevano affittato il teatro per 15.000 euro, è stato sospeso per una ventilata minaccia di contestazioni, più probabilmente per il non eclatante risultato della prevendita. Un unico spettatore, per quanto entusiasta, non garantisce quel minimo di calore che aiuta l'artista a dare il meglio di sé. Considerando che questi sono tempi grami per la cultura, che la premiere di Apicella era pur sempre una premiere, credo che questo solitario, misterioso spettatore non vada abbandonato la sua delusione. Dunque lo invito volentieri a cena per conversare con lui di arte e di canzone, pur sapendo di espormi a un rischio non trascurabile. Il rischio è che quell'unico biglietto venduto sia stato acquistato dalla stessa persona che ha organizzato l'esordio milanese di Apicella, ha affittato il teatro, apprezzato e apprezza l'opera del maestro e era disposto ad applaudirlo solo nel buio fino al bis. Il rischio, insomma, è ritrovarmi a cena con Silvio Berlusconi. Sui giornali, man mano che arrivano anche gli inviati di tutto il mondo, dei giornali italiani, dei quotidiani italiani, trovate sempre più articoli dall'interno della Libia, una Libia definita dai giornali sempre più alla devastazione, nel senso che Gheddafi ormai è dato per asserragliato in Tripoli e nella Tripolitania, la parte del paese che ancora controlla, anche se non si capisce bene percentualmente per quanto, mentre la Cirenaica ormai sembra le città Bengasi, Tobruk, cadute in mano agli insorti, agli oppositori del regime. C'è anche una foto, la foto che tutti i giornali oggi mettono in prima pagina, la foto di queste terribili dimostrazioni di fosse comuni, una spiaggia trasformata in un cimitero così improvvisato. Tanto che Vittorio Zucconi fa un editoriale molto, molto intenso sulla prima pagina di Repubblica. Quella fila di tombe sulla spiaggia, l'ombra dell'eccidio in un fotogramma. Sullo sfondo delle fosse, oltre la spiaggia dei morti che seppelliscono i morti, che traboccano dal cimitero di Tripoli dopo giorni di strage, si vede benissimo il Mediterraneo, la stessa acqua nella quale noi nuotiamo e l'Italia vive. Questo non è soltanto the horror, l'orrore assoluto che il colonnello Kurz immaginava nella giungla del sud-est asiatico concimata dall'apocalisse indocinese, o l'angoscia che ci assale quando rivediamo le esecuzioni in serie compiute dai mitra degli Einsatzgruppen SS in Ucraina, che le immagini dalla spiaggia di Tripoli ci trasmettono. È la prossimità umana, reale, fisica ai luoghi dei nostri sentimenti e delle nostre vacanze che rendono l'infamia libica qualcosa che ci appartiene come poche altre atrocità ci sono appartenute. La spiaggia di Tripoli non è meno o più accettabile dei massacri di massa compiuti nei boschi nebbiosi della Polonia, della Bielorussia, nelle risaie dei Khmer Rossi, in Campuchea, nelle Ande, delle stragi di Indio, nei massacri di nativi americani nel West, ma l'incongruenza tra il luogo e l'azione ci offende con una violenza che si spera ancora sia infondata, nella possibilità che quei filmati e foto non siano veri, perché spiaggia, nella nostra immaginazione, rappresenta vacanza, gioia, svago, tenerezze in un riflesso incondizionato. In lontananza, nella panoramica di una videocamera amatoriale, forse un telefonino, si intravedono cantieri per alberghi e residenze che li stavano innalzando. Inizia così questo racconto di questo orrore, con i precedenti anche nei fotografici. Ricordate anche gli stermini a Srebrenica nel 95, il genocidio del Ruanda nel 94, con le foto delle fosse comuni. Come avviene in tutti questi casi, quando crollano i regimi, ci sono poi le foto che raccontano i drammi umani di chi ne rimane vittima, magari anche negli ultimi giorni. Di Libia c'è moltissimo, ovviamente. C'è il fatto che Europa e Stati Uniti studiano nuove sanzioni. C'è un'intervista che voglio segnalare al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, intervistato per la verità da Die Welt, un quotidiano tedesco, da Thomas Schmid. E Napolitano parla anche della Libia. Sto seguendo con attenzione le drammatiche notizie provenienti dalla Libia. Questa intervista è riproposta dalla Stampa, pagina 10. È un pesante e odioso bilancio di vittime tra la popolazione civile, dice il capo dello Stato. Dobbiamo però, cosa deve fare l'Europa? Questa è la domanda. Dobbiamo rispettare l'autonomia di questi paesi, devono decidere loro stessi quale strada prendere. Non possiamo comunque che sostenere un processo di transizione ordinata che porti a elezioni democratiche. E tra l'altro su questa linea, cioè anche di sano pragmatismo, cioè non è che si può andare lì e fare un'invasione e fare i padroni del mondo, anche Lamberto Dini si spende in un'intervista a Repubblica. Lamberto Dini è uno di quelli in passato degli statisti, ministro degli esteri, presidente del Consiglio, che ha incontrato Gheddafi. I massacri dei civili sono inaccettabili, ma non vogliamo la fine di Gheddafi. Così Lamberto Dini su Repubblica. L'Italia non auspica la fine del colonnello. Non abbiamo ragioni per volere la caduta di un leader che oggi intrattiene buoni rapporti con tutta la comunità internazionale. Certo, la repressione è inaccettabile, se Gheddafi continua a percorrere questa strada segnerà la sua fine. Beh, insomma, una dichiarazione che va anche al di là del pragmatismo. Insomma, non vogliamo la fine di Gheddafi come paese, questo dice Lamberto Dini. E poi c'è l'aspetto che è anche il tema del nostro sondaggio, del possibile arrivondata di nuovi migranti che, ora che le coste della Libia non sono più controllate, potrebbero riversarsi in Italia. Oh, io dicevo, c'è anche un po' di terrorismo mediatico, sano terrorismo mediatico, di cui in Italia siamo molto, molto bravi. Il Giorno, guardate il quotidiano nazionale, la prima pagina, arrivano con una foto di persone un po' così trasandate che portano, probabilmente sono foto di altri sbarchi, arrivano, no? Più minaccioso di così. Il Sole 24 Ore con Marco Ludovico analizza in maniera un po' più pacata, pagina 4, la crisi cambia le rotte della speranza, quali sono le rotte, da dove partono, non più solo dalla Libia ma anche dalla Tunisia, da Zarzis, da Monastir, da Madia, da Cebba, ovviamente però se avete in mente un po' la geografia del Mediterraneo, da lì partono, da varie località partono, ma il primo sbarco è sempre o la Sicilia o Lampedusa e Linosa. Se si parte dalla Tunisia è più facile magari arrivare e puntare direttamente sulla Sicilia, altrimenti dalla Tunisia del sud o dalla Libia è più facile puntare a Lampedusa, tanto che Maroni chiede alla Unione Europea un fondo di solidarietà. E anche qui i titoli dei giornali sono, per secondo la Stampa i profughi potrebbero arrivare a 1,5 milioni, secondo molti siamo già stati totalmente abbandonati, Libero, il Giornale titolano l'Europa ci dice arrangiatevi. Insomma, in realtà oggi c'è un consiglio, credo, insomma, di ministri europei che si trovano proprio a Bruxelles per discutere su questo. C'è poi anche Raffaele Lombardo che subito si distingue, governatore della Sicilia, ripreso da Repubblica. La Sicilia protesta, li accolgano le regioni più ricche, cioè li portino per esempio in Veneto. E Zaia dal Veneto ha detto, ha perso un'occasione per stare zitto. Insomma, non si sono ancora visti, non si sono profilati, non si sa se arrivano, probabilmente arriveranno, ma già si sta litigando e si parla di abbandono, di 1,5 milioni, di mandiamoli in Veneto, no, mandiamoli in Sicilia, teniamoli in Sicilia. Bossi dice mandiamoli in Germania, la Germania non dice niente. Di questo parleremo alle 8:30. Mi viene da dare uno sguardo alla prima pagina del Manifesto su questo. Il Manifesto titola Ultima spiaggia, mettendo questa foto drammatica davvero che ho descritto all'inizio con l'editoriale di Zucconi, della fossa comune, del cimitero improvvisato su una spiaggia di Tripoli. Ebbene, mi viene da dare uno sguardo alla vignetta di Vauro, oggi molto cruda. C'è un Gheddafi al telefono con un coltellaccio da macellaio in mano, con tanti schizzi di sangue anche sul proprio grembiule. Frattini è preoccupato per il possibile arrivo di profughi libici. E Gheddafi, tranquillo ministro, te li ammazzo tutti prima. Questo Vauro oggi sul Manifesto. Veniamo alle cose italiane. Detto che questo sarà il tema del nostro sondaggio, votate alle 8:30, poi approfondiremo questo possibile arrivo di migranti dalla Libia. La politica italiana si concentra soprattutto sul milleproroghe. Milleproroghe è una corsa contro il tempo. Questo titolo al Sole 24 Ore, a pagina 8, con Marco Mobili, dopo le modifiche richieste da Napolitano, sono state fatte queste modifiche in un maxi emendamento, ora ci sarà dunque una fiducia chiesta alla Camera e poi un nuovo passaggio sabato probabilmente al Senato. Perché sabato? Perché il 28 febbraio scade tutto, va approvato entro il 28 febbraio. Il Sole 24 Ore propone quelle che sono tutte le norme che vengono abrogate in questo maxi emendamento che modifica dunque c'è un'abrogazione della graduatoria degli insegnanti, è sospesa la riorganizzazione della Consob, sospeso l'aumento degli assessori per le grandi città. Avevamo il vice sindaco di Roma, no? Qualche giorno fa, che diceva che non era niente di male, insomma, invece sospeso l'aumento la norma che prevedeva nei comuni con più di 1 milione di abitanti i consigli comunali che non subissero un taglio da 60 a 48 membri, anche la possibilità di aumentare gli assessori per Roma Capitale o per le città grandi. Questo è sospeso, una buona notizia, se rimane. Scorgo un po' di cose, no, invece rimane, e lo dico per il terzo giorno, la mega sanatoria per le affissioni dei manifesti abusivi, quella che ho detto, vado a fare la ola, molti ci hanno scritto veniamo a fare la ola con te, se, davanti al Quirinale, se si riesce a togliere questa mega sanatoria. Ma per il momento questa mega sanatoria per le affissioni abusive in campagna elettorale, con la quale i partiti si fanno un condono per le mega multe che dovrebbero pagare, circa 100 milioni di euro secondo qualcuno, condonati così con delle multe risibili, questa sanatoria rimane nel mille proroghe. Tra l'altro si dà per certo un Alemanno, sindaco di Roma, abbastanza arrabbiato per il fatto che gli hanno tagliato la possibilità di aumentare gli assessori. Pare che Alemanno abbia detto a Tremonti: non è finita qui. E pare che ci sia, secondo la stampa, una nuova tensione. Queste modifiche al mille proroghe abbiano creato nuova tensione tra Berlusconi e Tremonti. Hai combinato un pasticcio, torna la tensione tra Berlusconi e Tremonti. Questo secondo la stampa. Insomma, un mille proroghe un po' travagliato. Cosa invece ha ottenuto il sì è il federalismo municipale. Via libera al Senato dopo lo stop del Quirinale. Questo titolo a pagina 21, il Sole 24 Ore. E c'è un'intervista al ministro Calderoli, intervistato dal Corriere della Sera, pagina 14, sul federalismo. Calderoli dice: i tagli troppo duri ai comuni, ma ora i sindaci virtuosi saranno premiati. Un Calderoli che dice: dicano pure tutti quelli che dicono che non ci sarà autonomia per i comuni. Tra un mese o giù di lì i comuni disporranno di tributi flessibili che potranno incrementare o ridurre a loro giudizio. Grazie ai costi standard, chiede Marco Cremonesi. Ma certo, da fine anno qualunque cittadino troverà su internet il fabbisogno del suo comune, servizio per servizio. Lei si rende conto della portata di questa rivoluzione? Cambia il mondo. Se un elettore vede che un servizio costa 10 e il suo comune spende 15, va a prendere il sindaco con il forcone. Così parlò il ministro Calderoli al Corriere della Sera. Poi, alla questione del mille proroghe, Napolitano non vi ha fatto sconti, Calderoli è molto serafico. Non posso che dare completamente ragione al presidente Napolitano, visto ciò che era diventato quel decreto. E poi la politica su cosa si interroga? Su Hitler. Umberto Eco a Gerusalemme ha fatto un paragone. Berlusconi è stato eletto come Hitler. Mi chiede se Berlusconi è paragonabile a Gheddafi, a Mubarak, con cui aveva rapporti anche di amicizia? No, il paragone, intellettualmente parlando, potrebbe essere fatto con Hitler. Anche lui giunse al potere con libere elezioni. Così parlò Umberto Eco, che ieri era, tra l'altro, in un luogo dove anche solo citare Hitler crea un po' di polemiche, Gerusalemme. Era lì per presentare il suo ultimo libro, Il cimitero di Praga. E poi aggiunto Eco: in Italia non c'è lo stesso regime dei paesi del Nord Africa, non va dimenticato che c'è un elettorato pronto a supportare Berlusconi. È piuttosto triste, ma è così. Insomma, queste polemiche hanno suscitato delle reazioni di incredibile polemica con tutta la maggioranza, esponente della maggioranza, dicendo: ma ha offeso gli italiani. Per esempio Osvaldo Napoli ha offeso anche gli israeliani, proprio lì. Umberto Eco in serata poi è intervenuto dicendo: è stata estrapolata una mia frase, non ho mai paragonato Berlusconi a Hitler, ma la frase è quella che vi ho detto. Intellettualmente parlando potrebbe essere fatto un paragone con Hitler, intellettualmente parlando, Il Giornale lo mette come titolo di prima pagina. Dopo Ruby, Hitler. Umberto Eco, il guru della sinistra che usa la marocchina come un'arma, attacca. Altro che Gheddafi, Berlusconi è come il Führer. E vabbè, insomma, ci sono le polemiche, il dibattito è questo. Tra l'altro Il Giornale mette anche in prima pagina che cosa? La foto di Roberto Saviano con una notizia che c'è solo sul Giornale, poi all'interno a pagina 3, il padre di Saviano processato per truffa. Il guru giustizialista Saviano si ritrova col padre alla sbarra. Gianmarco Chiocci e Luca Rocca, Luigi Saviano, medico di base all'ASL di Napoli, sotto processo per una storia di prestazioni inesistenti, prescrizioni, ricette fasulle, rimborsi non dovuti, fatti che risalgono al 2000-2004, ma il 19 maggio prossimo al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dovrà decidere se accorpare al procedimento riguardante il papà dello scrittore un secondo filone nel quale sono contestati i reati del 2006. Dunque, ecco, da questa notizia con ampio risalto sul padre di Saviano. Io però a questo proposito voglio andare sul Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano mette in prima pagina quello che è una notizia che ha solo Il Fatto con uno scoop. Ho sparato così, questo è il titolo di prima pagina. Ecco il video che incastra Vittorio Emanuele. È una vicenda che risale a 33 anni fa, quando ci fu l'uccisione nella notte tra il 17 e il 18 agosto 78 sull'isola di Cavallo di Dirk Hammer, tedesco, 19 anni, raggiunto da due colpi di fucile alla gamba destra. Per questa vicenda è stato processato e assolto Vittorio Emanuele, ma il Fatto Quotidiano, che mette con Beatrice Borromeo a pagina 2 e 3 il video che incastra Savoia, dice così: nel 2006, mentre era in carcere a Potenza, Vittorio Emanuele è nella cella e una microspia lo riprende. E sentite cosa dice in questo video che il Fatto Quotidiano dice verrà pubblicato oggi dal nostro sito internet. Io ho sparato un colpo così e un colpo in giù, ma il colpo è andato in questa direzione, è andato qui e ha preso la gamba sua. Era steso, passando attraverso la carlinga. Spiega anche il tipo di pallotto, la 30-03. E poi in questo video Vittorio Emanuele di Savoia rievocherebbe il processo. Anche se io avevo torto, torto, dice due volte, devo dire che li ho fregati. Il procuratore aveva chiesto 5 anni e 6 mesi, ma ero sicuro di vincere, ero più che sicuro. Mi hanno dato 6 mesi con la condizionale. 6 mesi, c'era un'amnistia, non l'hanno neanche scritto. Sono uscito. E a quel punto nel video scoppia a ridere senza trattenere la soddisfazione. E tra l'altro il Fatto Quotidiano intervista anche la sorella di Dirk Hammer, morto dopo 111 giorni di agonia, che dice a pagina 3: dopo 33 anni ammette di essere un assassino. Provo orrore a quel video, ma al tempo stesso sollievo. È un miracolo che la verità sia emersa. Nessuno potrà dire che non si può sapere chi ha ucciso mio fratello. O siamo tutti uguali o è un paese di impuniti. Insomma, il Fatto Quotidiano ammette questo, che certamente, se confermato, è uno scoop. Cosa trovate ancora? Molto di Affittopoli. Oggi se ne occupa Oscar Giannino alle 9. Segnalo solo un'intervista a Repubblica del professor Emilio Trabucchi, che è stato a capo del Pio Albergo Trivulzio. Fino a pochi giorni fa si è dimesso. Io scaricato per motivi elettorali, ma fino a ieri tutti mi chiedevano la casa. E poi Libero ancora fa 3, 4, 5 pagine dedicate a questo. Libero si concentra ora sulle case rubate anche ai ciechi. Brunella Bollole e Fabiana Ferri: quando si tratta di case ai potentoni, l'ente ciechi ci vede benissimo. Inizia così l'articolo sull'ente ciechi di Roma, con case che è il patrimonio immobiliare dell'ente e dell'istituto dell'IPAB, questa è l'acronimo, che secondo Libero ha un patrimonio che viene anche destinato con scopi in modi molto poco chiari, e questa è la nuova, nuovo filone di Affittopoli. Chiedo a Peter se devo chiudere, ma credo di sì, tra un minuto. E allora, tra un minuto cosa c'è? E beh, insomma, c'è solo il tempo di leggere la Gazzetta dello Sport. Peter oggi mi dice: mi raccomando, leggi la Gazzetta dello Sport. Quindi discuteva, peccato perché ieri era quasi proprio finita la partita, ma purtroppo l'Inter non ce l'ha fatta, e nel senso che ha perso l'andata. Inter, che frittata! Questo l'errore di Giulio Cesare al 90esimo, ride il Bayern. Dunque, insomma, è finita 1-0 per il Bayern, ma c'è sempre il ritorno. E che dire, voglio leggere Rompipallone di Gene Gnocchi. Berlusconi assicura il suo appoggio a Roma 2020. Le atlete del beach volley possono dormire a casa mia. Questo Gene Gnocchi. Io vi ricordo il tema del nostro sondaggio: parliamo di questi possibili sbarchi di migranti dalla Libia, e vi chiediamo: l'Unione Europea secondo voi dovrebbe gestire uno smistamento di questi profughi in arrivo nei vari paesi europei? Con questa domanda vi lascio, votate il sondaggio, ora il giornale radio.